Don Bosco se ne intendeva, era un grande psicologo, sì, un grande pedagogo, un grande educatore e sapeva che se noi siamo tristi, eravamo tristi da ragazzi, tristi da giovani, lo siamo ancora, passiamo di momenti di sconforto indefinibile, è perché non siamo né carne né pesce, né caldi né freddi. Prima di venire qui a tenere questa conferenza è arrivato un ragazzo con una tazzina di caffè. Padre, è meglio che la prenda perché tocca un tema difficile. Una tazzina di caffè. E senti, è bollente? È tepido? Perché io non riesco a digerire il caffè tepido. Ci vuole caldo, magari bollente. Perché? Perché c'è una pagina nella Sacra Scrittura, nell'ultimo libro della Sacra Scrittura che si intitola Apocalisse di San Giovanni, in cui il Signore dice ad un tale, siccome non sei né caldo né freddo, io incomincerò a vomitarti. È una parola delle più dure di tutta la Bibbia. Siccome non sei né caldo né freddo, io tutte le volte che piglio il caffè, che me lo portano quasi freddo, né caldo né freddo, una via di mezzo, dico no, no, non me la sento perché io non lo tollero. Non dico quell'altra parola, la dice però il Signore. Siccome non sei caffè, né caldo né freddo, non ti prendo perché dovrei vomitarti. Qui c'è la risposta alla nostra tristezza. Certe volte non siamo capaci di digerirci, siamo allergici a noi stessi, sentiamo quasi schifo di noi stessi, sfiducia in noi stessi. E sentiamo proprio di non essere contenti, perché non siamo né caldi né freddi, siamo appena tepidi, vivi più morti che vivi, mezzo vivi o mezzo morti. Un cristianesimo vissuto così è come una tazzina di caffè, né caldo né freddo, è meglio non prenderlo, io personalmente. Ho chiesto a questo ragazzo, è un pezzo che ce l'hai qui. No, padre, me l'hanno appena dato le suore adesso. Ah, allora sì. Ne sentirò l'effetto per tutta la lunghezza di questa lezione. E dico che è così. Se io avessi preso quella tazzina tepida, oh, l'avrei qui in gola. E non sarei capace di dire neanche metà di quello che sto per dirvi. Scusate se prendo la mia persona come paragone di una cosa banale, ma altamente significativa. Vorrei dire a ciascuno di voi, in confidenza, siccome uno a uno non riesco, lo dico qui, volete sapere il perché di certe inquietudini che vi prendono, di cui non sapete parlare né alla moglie, né ai figli, né ai colleghi, né agli amici, ed è bene non parlarne, è perché a volte non siete né caldi né freddi nella vostra coscienza. Siete persone pressapochiste, grossolane, mediocri. Noi non siamo stati fatti a immagine e somiglianza di Dio per assomigliarli in qualche modo, per essere di Lui una fotocopia mal riuscita. Noi siamo stati fatti a immagine e somiglianza di Dio per essere come Dio. E Lui è l'essere perfettissimo, santo, santo, santo, il Signore, Dio degli eserciti. Santo. Ecco, è così. Anch'io a momenti sento questa tristezza di cui sto per parlarvi e siccome ho detto che è meglio non parlarne, anch'io non ne parlo, solo vi dico che ogni volta mi ricordo quella pagina forte dell'Apocalisse, siccome non sei né caldo né freddo, incomincerò a vomitarti. Parola di Dio. E allora io dico, riprendo quota. Voglio essere più caldo, più caldo, più caldo. E tutto passa. E io, per tirarmi su di tono, uso alcuni accorgimenti, ormai suffragati, sigillati, comprovati dall'esperienza mia e di altri a cui ho consigliato questo.